Mi piace d'esser solo, soffrire pensando a te. Più nulla non esiste, il sole non c'è più per me. Mi piace d'esser triste, fra tante cose meste che parlano ancora di te. Il cielo è così grigio e piove adagio e tutto è triste insieme a me. Mi resta solo il pianto dopo la gioia d'amare. In sogno ormai soltanto ti posso ancora baciare. Mi piace d'esser solo, soffrire pensando a te. Più nulla non esiste, da quando mi lasciasti, il sole non c'è più per me.